ad alta voce. Sandro Lombardi legge Gli occhiali d'oro di Giorgio Bassani. Anche quell'estate, come le precedenti, andammo in villeggiatura a Riccione, sulla vicina costa adriatica. Ogni anno succedeva la stessa cosa. Mio padre, dopo aver tentato vanamente di trascinarci in montagna, sulle Dolomiti, nei luoghi dove aveva fatto la guerra, alla fine si rassegnava a tornare a Riccione, a riprendere in affitto la medesima villetta accanto al Grand Hotel. Ricordo molto bene. Io, la mamma e Fanny, la nostra sorellina minore, ci muovemmo da Ferrara il 10 di agosto con la donna di servizio. Ernesto, l'altro mio fratello, si trovava in Inghilterra dalla metà di luglio, au pair, presso una famiglia di Bath, a impratichirsi della lingua. Quanto a mio padre, rimasto in città, ci avrebbe raggiunti più tardi, non appena la cura della campagna di Masi Torello glielo avesse consentito. Lo stesso giorno del nostro arrivo, seppi subito di Fadigati e dell'Ilier. Sulla spiaggia, affollata anche allora da ferraresi in villeggiatura con le famiglie, non si parlava che di loro, della loro amicizia scandalosa. A cominciare dai primi di agosto, infatti, i due erano stati visti passare da un albergo all'altro delle varie cittadine balneari disseminate tra Porto Corsini e la Punta di Pesaro. Erano apparsi la prima volta a Milano Marittima, di là dal Porto Canale di Cervia, fissando una bella camera all'Hotel Mare e Pineta. Dopo una settimana si erano trasferiti a Cesenatico, all'Hotel Britannia, e poi, via via, destando ovunque enorme scalpore e voci infiniti, a Viserba, a Riccione stessa, a Rimini, a Cattolica. Viaggiavano in macchina, una Alfa Romeo 1750 a due posti, rossa, tipo mille miglia. Intorno al 20 di agosto, impensatamente, eccoli di nuovo a Riccione, piazzati al Grand Hotel, come una decina di giorni avanti. L'Alfa Romeo era nuova di zecca. Il suo motore mandava una specie di ringhio. Oltre che per viaggiare, i due amici la adoperavano anche per la passeggiata di ogni pomeriggio, quando, all'ora del tramonto, la massa dei bagnanti risaliva dall'arenile per riversarsi sul lungomare. Guidava sempre dell'Ilier. Biondo, abbronzato, bellissimo, nelle sue magliette aderenti, nei suoi pantaloni di lana a color crema, alle mani appoggiate con negligenza al volante, ostentava certi guanti di camoscio traforato, del cui prezzo non era lecito dubitare. Evidentemente era lui, al suo esclusivo capriccio, che la macchina obbediva. Riguardo poi al dottor Athos Fadigati, il ben noto professionista di Ferrara, che aveva inaugurato per l'occasione un berretto piatto di panno scozzese e occhiali da seconda guida o da meccanico, oggetti da cui non si separava nemmeno se l'automobile, fendendo la calca a fatica, dovesse percorrere a passo d'uomo il tratto di viale davanti al caffè Zanarini. Egli si limitava a farsi scarrozzare su e giù, costretto nel sedile a fianco del compagno. Continuavano a dormire nella stessa stanza, a mangiare allo stesso tavolo, e sedevano l'uno accanto all'altro anche la sera, al medesimo tavolino, quando l'orchestra del Grand Hotel, trasportati gli strumenti dal salone da pranzo a pian terreno sulla terrazza esterna, esposta alla brezza marina, passava bruscamente dai brani di musica leggera alla musica sincopata. Ben presto la terrazza si riempiva. Ci andavo anch'io molto spesso coi nuovi amici del mare, e dell'Ilier non si lasciava sfuggire né un tango, né un valzer, né un passo doppio, né uno slow. Fadigati non ballava, si capisce. portando ogni tanto alle labbra la cannuccia che pescava nella bibita, non cessava però di seguire con l'occhio rotondo, di sopra l'orlo del bicchiere, le perfette evoluzioni che l'amico lontano compiva abbracciato alle ragazze e alle signore più eleganti, più vistose. Rientrati dalla corsa in macchina, entrambi erano saliti puntualmente a mettere lo smoking, serio, di pesante stoffa nera, quello di Fadigati, con la giacchetta bianca, attillata e corta ai fianchi, quello di Deliliero. Facevano assieme anche vita di spiaggia, per quanto la mattina fosse di solito Fadigati a uscire per primo dall'albergo. Arrivava che non erano le 9, quando non c'era ancora quasi nessuno, salutato con rispetto dai bagnini, ai quali, secondo ciò che essi stessi dicevano, era sempre molto largo di mance. Vestito da capo a piedi di un normale abito da città, soltanto più tardi, quando il caldo aumentava, si decideva a sbarazzarsi della cravatta e delle scarpe, ma il panama bianco, con la tesa abbassata sopra gli occhiali neri, quello non se lo toglieva mai, andava a sedersi sotto l'ombrellone solitario che per suo ordine era stato piantato più avanti di tutti gli altri, a pochi metri dalla riva. Sdraiato su una chaise longue, le mani intrecciate dietro la nuca e un libro giallo aperto sulle ginocchia, rimaneva così per 2 ore buone, a far niente e a guardare il mare. Deliliere sopraggiungeva soltanto verso le 11, col suo bel passo da belva pigra, reso ancora più elegante dal leggero impedimento degli zoccoli, eccolo che attraversava senza affrettarsi lo spazio di sabbia infuocata tra i capanni e le tende. Era quasi completamente nudo, lui. Le braghette bianche, che finiva di allacciarsi sull'anca sinistra giusto ora, la stessa catenina d'oro che portava al collo e da cui pendeva in cima al torace il ciondolo della Madonna, accentuavano in qualche modo la sua nudità. E sebbene, specie i primi giorni, gli costasse un certo sforzo salutare perfino me quando mi vedeva lì al riparo della nostra tenda, sebbene, passando tra i varchi delle tende e degli ombrelloni, non mancasse mai di arricciare la fronte in segno di fastidio, tuttavia non c'era troppo da credergli. Era chiaro che si sentiva fondamentalmente ammirato dalla maggior parte degli astanti, dagli uomini come dalle donne, e che questo gli faceva un gran piacere. Tutti lo ammiravano, senza dubbio, uomini e donne, ma toccava poi a Fadigati, per contraccolpo, scontare in qualche modo l'indulgenza che il settore ferrarese della spiaggia di Riccione riservava a Deliliere. Nostra vicina di tenda era, quell'anno, la signora Lavezzoli, la moglie dell'avvocato. Oggi, a vederla, non è più che una vecchia e ha perduto molto dell'antica importanza. Ma allora, nel maturo splendore dei suoi 40 anni, circondata dal perpetuo ossequio dei 3 figli adolescenti, 2 maschi e 1 femmina, e da quello non meno perpetuo del degno marito, illustre civilista, professore universitario ed ex deputato sanandrino, allora era da considerarsi una delle più autorevoli ispiratrici dell'opinione pubblica cittadina. Puntando dunque l'occhialetto verso l'ombrellone a cui Deliliere era approdato, la signora Lavezzoli, che era nata e cresciuta a Pisa, in Riva d'Arno, e si serviva con straordinaria destrezza della sua veloce lingua di toscana, ci teneva continuamente informati di tutto quanto accadesse laggiù. Col tono di voce e la tecnica quasi di un cronista sportivo dell'Eyar, riferiva ad esempio che gli sposini, alzatisi d'un tratto dalle sedie a sdraio, stavano dirigendosi alla volta del più vicino moscone. Evidentemente il giovanotto aveva espresso il desiderio di tuffarsi al largo e il vecchio, per non rimanere sotto l'ombrellone in palpiti ad attenderne il ritorno, aveva ottenuto di accompagnarlo. Oppure descriveva gli esercizi ginnastici a corpo libero che Delilier, dopo il bagno, eseguiva al sole per asciugarsi. Quando invece l'amato bene, inattivo lì accanto con un asciugamano di spugna in mano, sarebbe intervenuto così volentieri, c'era da giurarlo, per fare lui, per asciugare lui, per toccare lui. Oh, quel Delilier, commentava poi, sempre da tenda a tenda, ma rivolta in particolare a mia madre, credendo di abbassare la voce, forse, tanto da non farsi udire dai figlioli, ma in realtà parlando più forte che mai. Quel Delilier, in fondo, non era che un ragazzo viziato, un ragazzaccio a cui il servizio militare avrebbe fatto benissimo a suo tempo. Ma il dottor Fadigati, no. Un uomo della sua condizione, della sua età, non era scusabile in nessun modo. Aveva certi gusti? Era così? Ebbene, pazienza. Chi gliene aveva fatto eccessivo carico prima di allora? Ma venire a esibirsi proprio a Riccione, dove certo non ignorava come fosse conosciuto, venire a dare spettacolo proprio da quelle parti, mentre in Italia, volendo, se ne trovavano a migliaia di spiagge, nelle quali non c'è pericolo di imbattersi in un ferrarese che sia uno. No, via, unicamente da uno sporcaccione. E così dicendo, la signora Lavezzoli mandava fuori dai grandi occhi celesti di Regina fiamme di autentica indignazione. Unicamente da un vero degenerato, ribadiva, ci sarebbe stato da aspettarsi un tiro del genere. La signora Lavezzoli parlava, e io avrei dato molto perché tacesse una buona volta. La sentivo ingiusta. Fadigati mi dispiaceva, senza dubbio, ma non era da lui che mi consideravo offeso. Conoscevo alla perfezione il carattere di Delilier. In quella scelta delle spiagge romagnole, così prossime a Ferrara, c'era tutta la sua cattiveria e strafottenza. Fadigati non c'entrava, ne ero sicuro. Per me, lui si vergognava. Se non salutava, se anch'egli fingeva di non riconoscermi, doveva essere soprattutto per questo. A differenza dell'avvocato Lavezzoli, che si trovava al mare dai primi di agosto e dunque era al corrente come gli altri dello scandalo, sotto la tenda però, mentre la consorte teneva cattedra, non faceva che leggere Antonio Advers, né mai l'udii interloquire. Mio padre capitò a Riccione soltanto il 25 mattina, un sabato, ancora più tardi del preventivato, e ignaro di tutto, ovviamente. Arrivò in treno all'improvviso e, non trovando a casa nessuno, nemmeno la cuoca, scese senz'altro sulla spiaggia. Si accorse quasi subito di Fadigati e, prima che mia madre o i Lavezzoli potessero trattenerlo, si diresse allegro verso di lui. «Guarda chi si vede!» gridava, avvicinandosi a gran passi all'ombrellone del dottore. Fadigati sussultò e si volse. Mio padre già gli aveva teso la mano e lui stava ancora cercando di tirarsi su dalla chaise longue. Finalmente vi riuscì. Dopodiché, per 5 minuti almeno, li vedemmo parlare in piedi sotto l'ombrellone, voltandoci le spalle. Guardavano ambedue l'immobile lastra del mare, liscia, pallidamente luminosa, senza una increspatura. E mio padre, il quale esprimeva dall'intera persona la felicità di aver chiuso bottega, così si esprimeva quando da Riccione intendeva riferirsi a tutte le non piacevoli cose in città, affari, casa vuota, calura estiva, malinconici pranzi da roveraro, zanzare, eccetera, indicava a Fadigati, col braccio alzato, le centinaia di mosconi sparsi a varia distanza dalla riva, nonché lontanissime, appena visibili all'orizzonte e quasi sospese a mezz'aria, le vele color ruggine delle paranze e dei bragozzi. Vennero infine verso la nostra tenda, fatigati, facendosi precedere da mio padre di circa un metro e col volto atteggiato a una strana espressione, tra implorante, disgustata e colpevole. Saranno state le 11, Delilier non era ancora apparso. Mentre mi alzavo per andar loro incontro, notai che il dottore lanciava verso la linea dei capanni, di dove da un momento all'altro sperava o temeva di veder spuntare l'amico, una rapida occhiata piena di inquietudine. Baciò la mano di mia madre. «Lei conosce l'avvocato Lavezzoli, non è vero?» disse subito mio padre ad alta voce. Fatigati ebbe un attimo di esitazione. Guardò mio padre accennando di sì col capo, quindi si volse chiaramente sulle spine verso la tenda dei Lavezzoli. L'avvocato appariva immerso più che mai nella lettura di Antonio Advers. I tre figlioli, sdraiati bocconi sulla sabbia a due passi di distanza, in circolo attorno a un asciugamano di spugna azzurro, prendevano il sole sulla schiena, immobili come lucertole. La signora stava ricamando una tovaglia che le ricadeva in lunghe pieghe dalle ginocchia. Sembrava una Madonna rinascimentale sul suo trono di nuvole. Famoso per il suo candore, mio padre non si rendeva conto delle cosiddette situazioni prima di trovarcisi immerso fino al collo. «Avvocato!» gridò. «Guardi qui chi c'è!» Prima che il marito potesse rispondere, la signora Lavezzoli fu pronta a intervenire. Alzò di scatto gli occhi dalla tovaglia e d'impeto tese il dorso della mano a Fatigati. Ma sì!» gorgheggiò. Sorrideva, invitante, con la bella dentatura tutta scoperta. Profondamente avvilito, Fatigati avanzò nel sole e al solito un po' barcollava per via delle scarpe e dell'arena. Raggiunta comunque la tenda dei Lavezzoli, baciò la mano della signora, strinse quella dell'avvocato, che nel frattempo compitamente si era alzato in piedi, strinse ad una quelle dei tre ragazzi. Infine ritornò verso la nostra tenda, dove mio padre gli aveva già preparato una chaise longue accanto a quella della mamma. Sembrava molto più sereno di poc'anzi, sollevato, come uno studente dopo un esame difficile. Non appena si fu seduto, esalò un sospiro di soddisfazione. «Però che bello qui», disse, «che bella ventilazione». Si girò sul fianco a parlarmi. «Ricorda il mese scorso a Bologna, invece, che razza di caldo faceva?» Spiegò quindi a mio padre e a mia madre, ai quali d'altra parte io non avevo mai raccontato nulla dei nostri periodici incontri sull'accelerato mattutino delle 6:50, come negli ultimi 3 mesi ci fossimo fatti ottima compagnia. Parlava con disinvoltura mondana. Non gli pareva vero, evidentemente, di essere lì con noi, perfino coi temuti Lavezzoli, restituito a quello che, certo, in quel momento pensava dovesse essere il suo ambiente, riaccettato dalla società di persone colte e ben educate a cui aveva sempre appartenuto. «Ah!» faceva ogni tanto, allargando il petto ad accogliere come un balsamo la brezza marina. Era chiaro che si sentiva felice, libero e insieme penetrato di gratitudine, un po' impudicamente, pensavo io, per tutti coloro che gli permettevano di sentirsi così. Mio padre, frattanto, aveva riportato il discorso sull'afa incredibile dell'agosto ferrarese. «La notte non si dormiva», diceva, contraendo il viso in una smorfia di sofferenza, come se gli bastasse il ricordo del caldo cittadino per provarne ancora tutta l'oppressione. «Mi creda, dottore, non si riusciva a chiudere occhio. C'è chi fa cominciare l'evo moderno dall'anno in cui è stato inventato il flit, non discuto, però il flit vuol dire anche finestre ermeticamente chiuse, e le finestre chiuse significano lenzuola che ti si attaccano alla pelle per il sudore. Ah, non scherzo. Fino a ieri, lo giuro, vedevo avvicinarsi la notte con spavento. Maledette zanzare. Qui è completamente diverso, disse Fadigati con slancio entusiastico. Qui, anche nelle notti più calde, c'è sempre modo di respirare. E cominciò a diffondersi sui vantaggi della costa adriatica in confronto alle altre del resto d'Italia. Era veneziano, ammise. Aveva trascorso l'infanzia e l'adolescenza a Lido e quindi probabilmente il suo non poteva essere un giudizio troppo sereno. Secondo lui, tuttavia, l'Adriatico era di gran lunga più riposante del Tirreno. La signora Lavezzoli stava con gli orecchi tesi, dissimulando l'intenzione maligna dietro un finto orgoglio municipale, assunse con gran calore le difese del Tirreno. Dichiarò che se si fosse trovata nei panni di lui, Fadigati, a poter scegliere fra una villeggiatura a Riccione e una a Viareggio, non avrebbe esitato nemmeno un momento. «Guardi certe sere», aggiunse, «a passare davanti al caffè Zanarini si ha spesso la sensazione di non essersi spostati da Ferrara di un solo chilometro». Almeno l'estate uno desidererebbe francamente vedere altre facce, diverse una buona volta da quelle che gli vengono offerte tutto il resto dell'anno. Sembra di camminare per la Giovecca o per Corso Roma, sotto i portici del Caffè della Borsa, non trova? Fadigati si mosse sulla chaise longue a disagio. Di nuovo gli occhi gli sfuggirono verso i capanni. Ma di Delilier ancora nulla. Può darsi, rispose con un sorriso nervoso, tornando a portare gli sguardi sul mare.